Italia in controluce. Si apre una nuova settimana di Italia in controluce, oggi il 27 dicembre, due edizioni, lo ricordiamo, sulla cronaca italiana, ma anche sulla politica, il costume, la cultura, lo spettacolo, condotte e coordinate da Daniele Biacchessi. Vi ricordate l'espressione bamboccioni? Chi sono? Come vivono? Il reportage di Giovanni Bracco. Mammina, siamo tornati! Tornati? Meno i bimbi sperduti, non ne avevano ancora voglia. Sperduti? Voglia? Di crescere, e hanno fatto ritorno all'isola che non c'è. Che non c'è? La canzoncina di Peter Pan ci introduce al tema dei bamboccioni, argomento del libro Gioventù sprecata, perché in Italia si fatica a diventare grandi, pubblicato dalla Terza. Ne parliamo con Tonia Mastroboni, giornalista del quotidiano Il Riformista e autrice del libro insieme all'economista Marco Jezzi. Il primo a parlare dei bamboccioni fu il ministro dell'economia del governo Prodi Tommaso Padoa-Schioppa, denunciando il fenomeno dei giovani che faticano a staccarsi dalle sottane delle mamme. Ma è solo un problema psicologico oppure entra prepotentemente in gioco la condizione economica e sociale del paese, determinando questa forzata permanenza dei giovani nella casa dei genitori? Lo spunto fu esattamente questo, fu la frase di Padoa-Schioppa che ci fece riflettere su questo fenomeno. Un fenomeno che si è evidentemente aggravato a partire dagli anni 2000, diciamo, che ormai è certificato anche da istituzioni autorevoli come l'Istat o l'ISFOL, o la Banca d'Italia. Che cos'è il bamboccionismo? È un fenomeno secondo noi eminentemente socio-economico. Ci sono forse anche degli elementi culturali, no? Voglio dire, questo è il paese del cosiddetto familismo morale, cioè c'è un legame molto forte con la famiglia e la famiglia spesso e volentieri funge da ammortizzatore sociale. Si può quantificare il fenomeno dei bamboccioni? Nessuno si è scandalizzato il fatto che l'Istat abbia certificato che in Italia ci sono ormai 2 milioni di giovani che sono a casa. L'Istat ha anche coniato un acronimo che è NEET, Not Employed, Not in Training, cioè sono giovani che non sono in formazione, non fanno corsi di formazione, non studiano e non lavorano, che sono semplicemente a casa e non fanno nulla. Siamo in studio con Tonia Mastroboni, autrice con Marco Jezzi del libro Gioventù sprecata, perché in Italia si fatica a diventare grandi. Nel libro si denuncia il fallimento del modello 3 più 2 per l'università. Il 3 più 2 non è servito certo a migliorare la ricerca all'università, cioè ha solamente consolidato un sistema baronale che conosciamo ormai tutti, e il 3 più 2 è servito solamente a moltiplicare le cattedre, quindi in qualche modo a rafforzare il potere dei baroni. Anche le imprese e le banche hanno le loro responsabilità. In Italia la flessibilità si è trasformata spesso in precarietà. Il precario è il giovane che salta da un lavoro atipico all'altro, senza prospettive di carriera, senza prospettive di avere un miglioramento di stipendio, senza prospettive di costruirsi una vita. Ecco dov'è il bamboccione. Abbiamo cercato di descrivere che cosa succede a un giovane che va a chiedere un mutuo in una banca. La maggior parte delle volte gli viene chiesta la garanzia dei genitori. Parliamo di cervelli in fuga, parliamo anche di mosche bianche, cioè dei giovani che ce l'hanno fatta. Che cosa vi hanno raccontato? Abbiamo cercato in qualche modo di dare un messaggio di ottimismo, nonostante, no, la prima parte molto pessimista e molto, molto deprimente forse. Quindi abbiamo intervistato dei personaggi come la scrittrice Valeria Parrella, la regista Emma Dante, Filippo Preziosi, che è appunto l'ingegnere che ha inventato il motore con cui la Ducati ha rivinto il mondiale. E poi abbiamo intervistato 6 grandi vecchi. Mario Monicelli è stato molto, diciamo, duro, perché ha detto che è vero che siamo dei mammoni, è vero che siamo dei viziati, e sostanzialmente lui fa l'esempio della sua generazione e dice: sapete cosa avevamo noi? Noi ci siamo rimboccati le maniche dopo la guerra. Quello che vi manca è, per esempio, la coesione, cioè questo senso di solidarietà che effettivamente in questa generazione c'era. Nel libro noi cerchiamo anche di dimostrare che il grande problema dei giovani oggi è la mancanza di una rappresentanza sindacale e politica. Forza ragazzi, tutti all'isola che non c'è! Con un allegro pensiero, poi la gioia suscitare. Pensa ai doni di Natale, le vacanze di regalo. Vedrai che fino c'è! Riccardo Iacone è un giornalista che racconta l'Italia in presa diretta. Sabrina Pisu lo ha intervistato per Italia in controluce. Il libro si apre con il racconto del suo incontro a Parigi con il fotografo Enrico Dagnino, che è stato il testimone del primo respingimento in mare condotto dalla Guardia di Finanza. Era il maggio del 2009 e sono le immagini del viaggio disperato di un gommone verso la Libia. Senza presa diretta non si sarebbe mai vista la sequenza di quello che lei definisce un vero e proprio film dell'orrore. È una delle prove, una delle pistole fumanti del fatto che questo è diventato un paese meno libero. Ho analizzato un po' tutta l'informazione che c'è stata in quel periodo lì, in quel mese, ed è molto deficitaria. Racconta poco, racconta male, qualcuno non racconta niente e non si vanno a cercare neanche le prove quando sono sotto gli occhi di tutti. Le foto di Dagnino e l'esempio che lei ha fatto è quello più forte, perché la settimana successiva al primo respingimento Paris Match, che è un settimanale francese, ci fece un'esclusiva sopra, perché Famiglia Cristiana intervistò Dagnino, insomma si capiva che si poteva benissimo andare da Dagnino, in fondo è l'unico testimone. Ma c'erano anche tutti i vari richiedenti asilo, migliaia che vivono ancora a Roma e che avevano fatto quella rotta lì, che potevano raccontare ai telegiornali che cosa stava succedendo nel Mediterraneo, e non è stato fatto. Su quei respingimenti poi si fece anche la campagna elettorale e il centrodestra le vinse anche. Allora io dico che se tu costruisci il consenso con delle mezze verità, con delle bugie, fidando sul fatto che l'informazione non ti verrà mai a fare le pulci, quel consenso è un consenso drogato, che per alimentarlo dovrai dire altre bugie, e beh, questo è precisamente il pericolo che mi fa usare dei termini forti tipo svolta autoritaria. Uno dei temi più cari a Presa Diretta è la giustizia, con la testimonianza che avete raccolto di magistrati coraggiosi, a partire dal procuratore antimafia di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, che vive sotto scorta. Il contrasto alla criminalità è la priorità, secondo il ministro della giustizia Alfano. Di fatto, le procure, come avete documentato voi, a partire da quella di Reggio Calabria, sono sottodimensionate, mancano giudici e amministrativi. È un episodio di spostamento di senso, no? Tutto ben costruito naturalmente, e anche grazie al fatto che c'è un sistema di informazione un po' complice. Piuttosto che preoccuparsi dei problemi della giustizia, ci si occupa dei magistrati comunisti, di come tagliare le unghie alle inchieste. Si delineano cioè i magistrati non come preziose persone da aiutare, come dei nemici da colpire. In un paese dove l'illegalità tende ad aumentare, se noi non la arginiamo, questo paese non avrà futuro. Noi abbiamo paura quando si colpiscono i magistrati, abbiamo paura quando vediamo che intere zone del territorio in profondità stanno nell'illegalità, perché si crea un'economia illegale talmente importante che poi diventa l'unica capace di vincere la crisi. Quell'illegalità di cui lei parla è diffusa anche sotto il profilo ambientale. Il dossier dimenticato di Franco Barberi, ex capo della Protezione Civile, 10 anni fa censiva la vulnerabilità degli edifici pubblici denunciandone il crollo in caso di sisma. Gli interventi di riqualificazione, come avete documentato voi, non ci sono mai stati. Quella messa in sicurezza del territorio che avrebbe significato salvare molte vite anche all'Aquila. E soprattutto anche qui significa ipotecare il futuro, perché la sistemazione del territorio in Italia sarebbe un cantiere enorme, straordinario, darebbe da lavorare per 30 anni a centinaia di migliaia di persone, richiederebbe le competenze. Finalmente i geologi avrebbero qualcosa da fare, il grande scandalo, li laureiamo e in un paese come l'Italia non fanno niente, no? Devono andare a lavorare per le ditte che costruiscono ancora palazzi. Sul mio blog Daniele Biacchessi, radio24.it, trovate i post di attualità. Poi sui social network Facebook Radio 24 Italia in Controluce, su Twitter in Controluce e la mail controluce@radio24.it. Torniamo oggi alle 13.30 puntuali con nuove storie e nuovi reportage.